Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci. Il Parlamento europeo conferma la fiducia alla Commissione Juncker. Sentiamo. È terminata con un nulla di fatto la mozione di sfiducia contro il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Stamani il Parlamento europeo, riunito questa settimana a Strasburgo, ha dato nuovamente la fiducia all'uomo politico lussemburghese, oggetto di polemiche dopo che un'inchiesta giornalistica ha rilevato che il Granducato ha concesso per anni generosi accordi fiscali a numerose multinazionali. La mozione, presentata da movimenti radicali ed euroscettici, è stata respinta con 461 voti contrari e 88 astensioni, 101 i voti favorevoli, dopo che nella raccolta di firme la mozione aveva raccolto 76 firmatari. Il Parlamento e soprattutto i grandi partiti popolari hanno fatto quadrato intorno a Juncker. L'ex premier e capo del Granducato dal 1995 al 2013 deve tuttavia fare i conti con un calo della sua credibilità. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dovrà convincere l'opinione pubblica di essere impegnato pienamente nella lotta all'elusione fiscale. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Questa mattina le parole di Mario Draghi al Parlamento finlandese. La politica monetaria non può fare da sola tutto il lavoro pesante, ha detto il presidente della BCE. Tutti gli attori del campo politico, sia a livello nazionale che a livello europeo, devono fare la loro parte. Le prospettive di crescita dell'Eurozona, ha ribadito ancora Draghi, sono circondate da diversi rischi a ribasso e la BCE è pronta ad utilizzare altri strumenti non convenzionali se dovesse diventare necessario fare fronte ai rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Ed ora torniamo sulla Grecia, che sta tentando di uscire dalla crisi. Nulla di fatto tra la Troica e il governo greco nell'incontro svoltosi a Parigi per decidere il via libera alla tranche di aiuti dei creditori internazionali. Il Fondo Monetario insiste nella richiesta di nuove manovre di risanamento per colmare il buco di bilancio di 2,6 miliardi di euro, mentre il governo Samaras si oppone e ha presentato un bilancio in Parlamento senza alcun deficit. Così il braccio di ferro sui conti greci continua, mentre oggi è sciopero generale ad Atene di 24 ore nel settore pubblico e privato, proprio contro la politica di austerità dell'esecutivo. Il premier Samaras ancora una volta cerca una difficile mediazione tra le richieste della Troica e le esigenze della popolazione, ormai stremata da anni di politiche di rigore. Vittoria Darold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Telecomunicazioni, tutti noi vogliamo che sia lanciato il negoziato con il Parlamento europeo, ma non oggi, in quanto, ha detto il commissario Oettinger, ci sono ancora punti in sospeso da chiarire. Quando in primavera il Parlamento europeo votò una riforma che puntava ad azzerare il roaming nell'Unione europea dalla fine del prossimo anno, alcuni festeggiarono senza tenere conto del necessario parere dei governi. Oggi a Bruxelles, alla riunione dei ministri europei delle telecomunicazioni, si dovrebbe capire che tra i 28 non c'è un accordo e che tutto è rinviato sine die. Stesso discorso per la neutralità della rete, il principio base con cui Internet si è sviluppata, una questione apparentemente tecnica ma che riguarda ogni cittadino quando naviga sul web. Le società di telecomunicazioni vorrebbero avere mano libera per gestire a proprio vantaggio il traffico e alcuni governi, tra cui l'Italia, non sarebbero del tutto contrari. Posizione criticata da molte parti in Europa, in un momento in cui perfino il presidente Barack Obama si è fortemente schierata a favore di una rete Internet neutrale. In definitiva, l'impasse nel settore TLC è determinato da vari fronti, con un Parlamento che si è pronunciato a favore dei cittadini e consumatori e molti governi più attenti invece agli interessi dei grandi operatori di telecomunicazioni. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la rivoluzione presentata da popolari e socialisti sul mercato unico digitale. Il testo, non vincolante, sollecita politicamente la Commissione europea a continuare a vigilare sulla posizione dominante di Google sul mercato dei motori di ricerca. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.